Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Il corvo, o più probabilmente uno dei corvi che ha trafugato lettere riservatissime, alcune inviate direttamente al Papa, ha smesso di volare. Il Vaticano gli ha tarpato le ali. Un confronto tra il segretario del Papa, Monsignor Genswein, e il maggiordomo traditore Paolo Gabriele. Paolo Gabriele prima è stato interrogato. Questo è il provvedimento disposto nei confronti di Paolo Gabriele, l'ex maggiordomo infedele del Papa, accusato di furto aggravato di documenti privati di Benedetto XVI. Ha detto: sono innocente del furto, ma sono colpevole di aver tradito la fiducia del Santo Padre. Sono usciti anche dei nomi clamorosi, li aveva fatti durante l'inchiesta Paolo Sardi. Oggi è chiaro che non è mia intenzione fare una trasmissione mangiapreti, non è proprio nel mio spirito, però vorrei fare un punto, e su questo chiederei l'ausilio, l'appoggio e il contributo degli ascoltatori, su quella che è la percezione media nell'italiano, che ha una normale, banale, media formazione e una normale, banale, media attenzione verso i problemi che hanno a che fare con il dominio della fede, della religione e con la storica proiezione di tutto questo, almeno nella nostra civiltà occidentale, che è la Chiesa Cattolica. Ci sono due filoni che in realtà non si può fare a meno di ignorare, per quanto uno voglia ignorare questo tipo di problemi o si senta indaffarato, si senta preso tanto e profondamente dai problemi di ordine materiale per non porsi altri problemi. Le notizie che bene o male hanno a che fare con tutto quel mondo di riferimenti che noi per tradizione, per storia personale, ma anche per storia nazionale, attribuiamo comunque al mondo della religione, dello spirito, dell'attenzione per ciò che non è puramente materiale, ci lasciano lievemente perplessi. Da una parte la vicenda difficile, martoriata, ambigua per molti versi, del processo a Paolo Gabriele, un processo all'interno del Vaticano in cui nessuno noi ha mai pensato e immaginato potesse esserci una prigione, un tribunale, dei giudici, delle persone che hanno e possono esprimere delle sentenze. Tutti abbiamo sempre visto il Vaticano come un bel posto con le guardie svizzere davanti, in cui si va dentro se si ha qualche amico per comprare delle cose a buon prezzo, ma il posto dove sta il Papa, dove chi ha un maggior orientamento e attenzione a questi problemi considera il punto vitale di tutta la cristianità, ma nessuno pensava che ci potesse essere da sotto tutto questo mondo su cui ci sono poche, quasi difficili risposte da dare. Poi questa mattina leggiamo a pieni titoli di tutti i giornali che alla Buchmesse di Francoforte sarà presentato il libro che termina la trilogia del Papa dedicata all'infanzia di Gesù, il nuovo libro di Benedetto XVI, appunto, che sarà in definizione trattative sarà venduto, tradotto in 32 paesi, che ci ripone il Papa come appunto il massimo mediatore possibile tra la nostra misera condizione di esseri umani e l'assoluto. Ci parla di Gesù, della sua reale consistenza storica. Beh, di fronte a questo, in qualche maniera, noi vorremmo orientarci. Voi come vi orientate? Io non ho grandi risposte. Mi piacerebbe sapere se qualcuno del pubblico si è posto questa mattina il problema e se si è dato qualche risposta. In nome di Sua Santità Benedetto XVI, gloriosamente regnante, il Tribunale, invocato alla Santissima Trinità, ha pronunciato la seguente sentenza. Dichiara l'imputato Paolo Gabriele colpevole del delitto previsto per avere egli operato con abuso della fiducia derivante dalle relazioni di ufficio connesse alla sua prestazione d'opera, la sottrazione di cose che in ragione di tali relazioni erano lasciate o esposte alla fede dello stesso. Lo condanna pertanto. Questa è la sentenza di condanna a Paolo Gabriele, che poi alla fine condanna mitissima, già si sa che non essendoci poi nemmeno materialmente un luogo in cui dovrà scontare la pena, avrà gli arresti domiciliari, sarà sicuramente graziato, si parla di questa grazia. E questo è l'altro aspetto, l'altra notizia che in fondo ha la stessa scaturigine, viene dallo stesso ordine di riferimenti. Questo giovedì è stata presentata la seconda parte del libro di Benedetto XVI su Gesù di Nazareth. Il volume abbraccia la settimana santa dall'ingresso a Gerusalemme fino alla risurrezione. Quando il cardinale Josef Ratzinger è stato eletto papa 6 anni fa, aveva già in mente da lungo tempo un progetto che non ha mai voluto abbandonare: scrivere un libro che rivelasse la vera figura di Gesù. Finora sono usciti 2 libri, mentre ne deve uscire ancora un terzo. Ignazio Ingrao, buongiorno. Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama, è stato già ospite in altre trasmissioni in cui abbiamo iniziato a toccare, a lambire il problema di VatiLeaks. Oggi che siamo arrivati a una forma di epilogo, riprendiamo il punto. Innanzitutto, trovi congrua la domanda che ci facciamo questa mattina? Secondo te esiste un minimo di disorientamento in generale, ma in un attento etico osservatore, non necessariamente in un credente, di fronte il contrasto di 2 notizie? Ma la trovo congrua, e questo è il problema, è uno dei problemi principali di questo pontificato. Da una parte Benedetto XVI ha scelto come priorità la pedagogia, l'insegnamento, l'annuncio del Vangelo, e questo naturalmente ci sta tutto per un pontefice, però ha deciso di delegare agli altri principalmente il governo, l'esercizio dell'autorità nella gestione delle questioni organizzative, e questo però, come abbiamo visto, rischia di azzoppare gravemente il suo messaggio, la forza anche del suo messaggio, perché mentre lui finiva di scrivere il suo libro, poi nei piani più in basso del Palazzo Apostolico, corvi, lettere anonime, lotte di potere, poi rischiavano di mettere in ombra anche la forza dell'annuncio di questo pontificato. E poi c'è una terza notizia che ci ha colpito in questi giorni. Il proprio sabato, mentre veniva letta la sentenza a carico di Paolo Gabriele, il grande accusatore dei preti pedofili, l'americano Monsignor Scicluna, il fautore della tolleranza zero, grande accusatore nell'ex Sant'Uffizio, veniva allontanato, viene spedito come vescovo a Malta, niente meno, e quindi perde un pezzo, la grande battaglia contro la pedofilia dentro la Chiesa Cattolica perde un pezzo importante. Perché questo? Forse aveva pestato i piedi a troppi vescovi, a troppe conferenze episcopali, ma tutto questo dà il senso di una Chiesa che fa fatica in qualche modo a organizzarsi o comunque ad essere incisiva. Ecco, come comunica la Chiesa tutta questa complessità di cose? Mi sembra un po' riduttivo comunque dare le notizie su canali diversi, parlare del libro del Papa, parlare dell'indubbia importanza del suo punto di vista sulla figura storica di Gesù, sulla commozione che deve provare il cristiano verso questa figura, che non è soltanto una figura assolutamente simbolica, ma una figura anche concreta, reale e storica, un dibattito di cui esistono moltissimi precedenti, e allo stesso tempo il filone delle notizie sulle quali bisogna o stendere un velo di imbarazzo, comunque cercare delle maniere elusive per parlarne. Ma vedi, noi abbiamo l'idea che la Chiesa sia una grande monarchia assoluta guidata dal Papa. In realtà, ma non dovrebbe essere così. È nella storia una grande anarchia, tra virgolette, dove poi ci sono tanti rivoli e tante situazioni. Questo è uno dei problemi lasciati risolti dal Concilio Vaticano II, di cui ricorrono domani 50 anni, che voleva proprio, con la collegialità episcopale tanto reclamata anche dal Cardinale Martini, invece cercare di riportare in una, diciamo, in un'armonia, in una sintonia le varie voci. Sarà ricordato il cinquantennio del Concilio? Verrà ricordato domani con una messa, ma non basta, una messa. Non ho visto molte notizie su questo, infatti, o grandi titoli su questa cosa. Infatti proprio Martini voleva addirittura un Concilio Vaticano III per rilanciare questo tema della collegialità. Vedi, se i vescovi si potessero realmente, concretamente, mettere intorno a un tavolo a discutere e a decidere, allora non ci sarebbe bisogno delle lettere anonime o dei dossier anonimi. Purtroppo invece c'è un sinodo dei vescovi che è tuttora riunito in Vaticano, ma è puramente consultivo. Poi magari per fare arrivare invece una lamentela o un problema si preferisce la lettera anonima spedita al Papa, e questo è uno dei problemi della Chiesa. Gianluigi Nuzzi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Gianluigi Nuzzi è il protagonista di tutta questa vicenda, inutile non dirlo, giornalista di Libero, autore di Processo al Maggiordomo, che è l'ebook uscito da Chiare Lettere, l'abbiamo annunciato qualche giorno fa, proprio in questi giorni in cui sono racchiuse Tutte le chiacchiere che si è fatto Nuzzi con Paolo Gabriele, aiutante di Camera del Pontefice, e anche la prima parte del processo, non si è fatto in tempo a mettere la sentenza perché è uscita in questi giorni. Devo dire che l'introito di questo libro sarà devoluto in beneficenza per la comunità di Don Andrea Gallo. Gianluigi, rispetto a quello che ci siamo detti fino adesso, aggiungi il tuo punto di vista. Finalmente si può dire chiaramente, apertamente, che Gabriele era la persona che ti ha dato le prime informazioni, sei stato il primo a sollevare questo problema dei documenti in Vaticano. Come vedi innanzitutto la sentenza? La sentenza, poi la stampa laica non lo fa osservare, ma insomma, tra come è stato dipinto all'inizio Paolo Gabriele, che sembrava il monatto che ungeva di malaria alle porte di noi tutti, insomma, alla fine gli hanno dato una pena molto ridotta. L'accusa è quella di aver passato delle carte, delle fotocopie a un giornalista. Che sei te? Io sono stupito come nessun collega rivendichi il fatto che meno male che ci siano persone che passano le carte ai giornalisti e danno informazioni su fatti dei quali noi non saremo a conoscenza, perché poi è questo sempre il grande problema. Beh, le fonti sono sempre state queste, perché se no le notizie dove le trova il giornalista? Esatto, però vedi, noi ci siamo piegati, noi giornalisti italiani, dico, a questa anche questo linguaggio cupo, no? Gabriele il corvo, i corvi, ecco, sento in grado che parla di lettere anonime, insomma. Qui uno, Gabriele, non è un corvo, perché i corvi sono quelli che appunto distribuiscono anonimi e propalano pezzi di carta non firmati. Beh, è una semplificazione che hanno usato tutti i giornali, diciamo. Sì, non sto criticando Ignazio, ci mancherebbe, sto dicendo è una semplificazione negativa, però, perché qui non ci sono lettere anonime, qui ci sono documenti firmati che raccontano fatti imbarazzanti per il Vaticano, che ben pone una distanza. Io ho scritto siderale tra la Chiesa di tutti, il Vangelo e quello che le cospirazioni, gli interessi, le denunce di corruzione che corrono nei sacri palazzi. Guarda, io ho letto su questo ebook stralci dei colloqui avuto con Gabriele, ma deve fare una persona anche molto fragile, parla di martirio e di penitenza, fa continui riferimenti poi a mondi teologici, senza di libri che nemmeno ha letto, però l'ha colpito il titolo. A un certo punto parla di martirio e di penitenza, cosa che mi ha colpito molto. No, lui parla di un libro di Casaroli che è molto importante, che però non ha letto, conosce il titolo ma non ha letto. Lui dice di non aver letto, poi attenzione, cioè, quello è un mondo complicato. Il martirio della pazienza è un libro di Casaroli sul quale che è una chiave fondamentale per capire il periodo di quella segreteria di Stato. Comunque non voglio tornare indietro con l'orologio, perché sennò ci perdiamo. Sto dicendo, primo, la sentenza, un anno e mezzo di carcerazione che non farà, interverrà, speriamo, sollecitata da tutti, la grazia del Pontefice. Ma il problema non è Paolo Gabriele, perché sarebbe troppo facile chiudere questo caso pensando al maggiordomo del Santo. Questo l'hanno un po' capito tutti, però, onestamente. Il problema, scusami, è quello che emerge nel libro, in Sua Santità. Cioè emerge una governance condizionata, segnata da complotti, congiure, denunce di cospirazione, con spese. Io, quando mi è venuta in mano la carta che per il presepe di Piazza San Pietro spendo 250.000 euro ogni anno, ma viva Dio, questo è uno scandalo. E quando vengo a sapere che il monsignore che ha scoperto questo, che ha ridotto le spese, è stato espulso dal Vaticano ed è stato mandato come nunzio apostolico a Washington, queste sono storie che sono ancora tutte da raccontare. Allora qual è il problema? E chiudo, qual è il problema? Il problema è evidente, l'ha detto anche in Grau magari, è che accadono delle cose che non ci vengono spiegate. Cioè adesso questo vescovo che era stato uno dei punti di riferimento nella lotta alla pedofilia, perché è stato mandato a Malta? Questo non ci viene spiegato. Non certo per il clima, ecco. Esatto, ma questo è intollerabile. Io trovo intollerabile il fatto che non accadano le cose e nessuno le spieghi. Perché è stato mandato via Gotti Tedeschi? Questo non ci è stato spiegato. Perché il presidente dello IOR, Gotti Tedeschi, della Banca del Papa, ha scritto in un memoriale che teme di essere ucciso? È un pazzo? Va bene, allora lui sarà un pazzo. i casi di corruzione denunciati da Viganò nelle sue carte, anche lui è un pazzo, e va bene, Viganò è un pazzo, però Paolo Gabriele gli ha fatto la perizia psichiatrica, però ripeto, con le perizie psichiatriche non si fa la storia, spero che non si faccia quella del Vaticano e della Chiesa poi. 800240024, il tema mi sembra espresso molto chiaramente anche da le aggiunte che ha fatto adesso Gianluigi Nuzzi. La persona che ha questo tipo di notizie, con quale commozione, con quale partecipazione, ma lo dico prendendomene tutte le responsabilità umane, può poi leggere Il trionfo e la gloria del libro che parla di Gesù Bambino, se prima non vengono chiarite queste cose. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno. Io volevo intervenire appunto per dire questo. A mio avviso la Chiesa viene percepita, o almeno come la percepisco io da italiano, che posso definirmi medio, insomma, come una SPA, una grossa organizzazione mondiale all'interno della quale, a fianco a persone che lavorano onestamente e fattivamente, esistono lotte intestine, esiste... Lei è credente, Antonio? Io sono credente. Io credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica e romana. Cioè non è che si può dire credo a metà, o crede tutto o crede niente. Penso che questo sia il motivo dello sbandamento e del disorientamento della maggior parte dei cattolici. Proprio questo. Il fatto che dal punto di vista dogmatico uno deve accettare in toto appunto il credere in tutto, non si può giustamente confezionare. Ma uno delle domande è lecito che se le faccia quando un giornalista come Nuzzi porta delle prove, uno non può credere alla cieca, vorrebbe avere probabilmente delle spiegazioni ulteriori. Certo, ma guardi dottore, io credo anche questo, che nella storia gli episodi che hanno visto la Chiesa l'episodio in cui la Chiesa è uscita in modo negativo sono molteplici, non ci dimentichiamo. Ma io non voglio fare un processo questa mattina alla Chiesa, perché non sono io la persona a farla, non ho nessuna intenzione di farlo, semplicemente colgo una perplessità e un disagio e vorrei capirne bene i sintomi senza dare risposte. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Io a parte che sono completamente d'accordo con Nuzzi, ho letto il suo libro. Io, come anche il precedente signore ha detto, Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama. Ecco, io dico, la situazione è che la Chiesa per me non è cambiata dal 1200 a oggi, si è solo evoluta. Allora stiamo parlando del Vaticano. Il Vaticano è uno Stato. Se non giriamoci intorno, il Vaticano è uno Stato, prende dei soldi, prende sovvenzioni, ha interessi in tutto il mondo e certe cose non devono venire fuori. La fede è un'altra cosa, questo è un altro discorso. Lei scinde una professione, una pratica di fede da l'accettazione del fatto che possa esistere uno Stato, anche se è lo Stato in cui c'è il centro della cristianità, che possa avere come tutti gli Stati le sue aree di compromesso. Ignazio, velocemente poi diamo la linea. Ma certamente appunto è uno Stato, e poi la Curia Vaticana è lo Stato maggiore e non prende sovvenzioni il Vaticano, diciamo, dall'esterno, nel senso che l'8 per mille o le altre sovvenzioni le prendono semmai le chiese locali per il lavoro che fanno, diciamo, all'interno. Il problema è effettivamente, secondo me, che poi, diciamo, quello che poi è l'obiettivo di determinate operazioni. Io faccio fatica sinceramente ad ascrivere però Paolo Gabriele tra i buoni, diciamo, tra quelli che vogliono assolutamente la trasparenza. A mio avviso l'obiettivo delle carte che lui ha tra i mille documenti che aveva raccolto e che ha selezionato per poi poter, diciamo, essere diffusi all'esterno, avevano un obiettivo, che era il segretario di Stato Bertone, per indurlo alle dimissioni, a mio avviso, e anche il capo della gendarmeria Giani. Dire che, diciamo, quindi lui era il cavaliere buono, così come Viganò erano tutti cavalieri buoni e altri poi sono i cattivi, faccio un po' fatica. Le cose sono un po' più complicate. Allora, fermiamoci un attimo, Ignazio, perché devo dare la linea all'informazione della borsa. Interessante che te, Nuzzi, abbiate due posizioni diverse, se no non vi avrei chiamato entrambi. Ci fermiamo un istante, poi chiariamo o riconfrontiamo su questo punto. Paolo Gabriele era semplicemente la pedina più evidente di un grosso processo di frattura all'interno delle gerarchie vaticane, o Paolo Gabriele era una persona che in buona coscienza pensava di far del bene per il suo Papa e per la sua Chiesa. 800240024, riprendiamo con qualche ascoltatore sulla vicenda che stavamo ponendo, il diverso punto di vista fra le notizie apparentemente contrastanti, o che perlomeno destano perplessità, tra le vicende interne di una parte appunto della curia romana, del Vaticano, della Chiesa, e poi il grande messaggio, la grande missione che dovrebbe avere appunto per tutti i cristiani, ma anche per chi da laico osserva il fenomeno. Abbiamo al telefono Vittorio Messori. Vittorio Messori, buongiorno. Buongiorno a voi. Vittorio Messori è un giornalista, è lo scrittore cattolico più letto nel mondo, ha scritto un'infinità di libri e ha anche intervistato un papa. Messori, la domanda ci ponevamo questa mattina è proprio con il massimo distacco e la massima leggerezza possibile, a fronte di notizie in forte contrasto. La vicenda ancora non risolta, piena di ombre, piena di dubbi, di Vatilix, del segretario del Papa processato, forse graziato. E la notizia, che ci fa molto piacere, del nuovo libro del Papa che racconta l'infanzia di Gesù. Che tipo di atteggiamento possono provocare nel cattolico medio, nell'osservante, come è la maggior parte poi in fondo dei cattolici nel nostro paese, di tradizione, di cultura, di radici e di media osservanza nel quotidiano? Certamente spesso si dimentica che la Chiesa è bifronte, in qualche modo in senso etimologico ambigua. La Chiesa è al contempo un'istituzione, e un'istituzione umana, ma è un'istituzione che è come il guscio, che è come la conchiglia che racchiude il mistero appunto dell'incarnazione, il mistero del Vangelo e così via. Per cui molto spesso si confonde la Chiesa con il Vaticano, per cui ci sono certamente, siccome la Chiesa è fatta di uomini, e il Padre Eterno non ha assicurato l'impeccabilità degli uomini che gestiranno la Chiesa, allora succede che, come in ogni istituzione umana, ci siano cose che possono provocare sconcerto o addirittura scandalo. Ma ovviamente questa non è la Chiesa. La Chiesa, diceva Sant'Ambrogio, se mi è permesso così una citazione in un piccolo latinetto, la Chiesa è immaculata, cioè è senza macchia, ex maculatis, cioè è gestita da persone maculate, cioè peccatrici, ma la Chiesa, in quanto mistero, ripeto, non è toccata da questo. Quindi cose, io dirò, infatti, io essendo... Questo è un punto di vista di un credente, anche con un grande coraggio di testimonianza alla propria fede, e gliene do pieno atto. Guarda, io sto parlando da, tra virgolette, convertito, anche se la parola è grossa e qualche volta gli metto un po' di disagio. Ma sono quelli che credono di più i convertiti, rispetto a chi ci nasce. Sì, spesso sono anche pericolosi, perché... di solito il convertito rischia un po' di esagerare. Ecco. Potrebbe ricambiare idea, no? Un convertito ormai no? No, esagerare nel senso magari di diventare magari degli integralisti, no? Succede spesso, insomma. Così. Però, sai, è un periodo messo rispetto a tutti i secoli passati di ambiguità che ci riportano le cronache storiche, in cui la comunicazione è molto più capillare. È un po' difficile che in periferia non arrivi quello che accade appunto al centro. Le notizie circolano, i giornalisti sono molto più attenti alle loro fonti. Abbiamo al telefono Gianluigi Nuzzi, che è quello che ha un po' sollevato i problemi delle ambiguità all'interno. No, certo. Appunto, e quindi è ancora più difficile trincerarsi dietro una formula antica che vale in assoluto per altri tempi e altre epoche. Senta, non è, mi scusi, ma voglio dire, questa ambiguità della Chiesa, per cui il Vaticano non va confuso con il Vangelo, con Gesù Cristo, appunto. Il Vaticano gestisce come può, appunto, con tutti i limiti, le debolezze, i peccati umani, gestisce come può un messaggio che infinitamente lo supera. Quello che si legge sui giornali, non soltanto italiani, ma i giornali appunto del mondo intero, soprattutto dell'Occidente, è del vaticanismo, ma l'informazione religiosa molto spesso non la si legge, non la si vede. Lei come l'avrebbe gestito, Messore, se fosse stato, facciamo una domanda dell'assurdo, lei è responsabile della comunicazione di tutta la vicenda Vatilix, cioè il Vaticano legato appunto alla figura di Paolo Gabriele, il suo processo, come l'avrebbe gestita? In maniera più trasparente o esattamente come è stata gestita? Ma ho l'impressione che sia stata gestita piuttosto bene, perché, come dire, Anche nel giudizio mi pare che siano state unite abbastanza efficacemente. Da un lato la giusta severità, la giustizia appunto che ha i suoi diritti, e dall'altro lato la comprensione che si è rivelata appunto nel dimezzamento immediato della pena, e poi molto probabilmente anche la misericordia, cioè la grazia dello Stato. Certamente. Gianluigi Nuzzi, cosa dice quello che dice Messori rispetto alla sentenza di cui parte sei stato causa te scatenante? Ma come dire, sottoscrivo e condivido l'analisi di Messori, che secondo me ha, come dire, una capacità di visione d'insieme rara, e questo mi fa piacere ascoltarlo. Mi permetto di aggiungere un fatto: è vero che la Chiesa e il Vaticano sono entità diverse, infatti nel libro non c'è nulla, nei miei libri non c'è mai nulla contro la Chiesa, perché non è questo il mio focus. Mi chiedo però, e torno a bomba allora, cioè mi chiedo come mai, per esempio, parliamo dello IOR, allora come mai a distanza di 30 anni dalle vicende tristi, opache di Calvi, Marcinicus e quant'altro, come mai con sentenze che hanno messo i giudici italiani, dove hanno scritto che lo IOR riciclava soldi della mafia addirittura, questi giudici della Corte d'Appello di Roma, no? Ecco, mi chiedo come mai rispetto a questi precedenti non ci siano accelerazioni verso, non dico una totale trasparenza, ma una forte trasparenza, cioè perché tramite... Non mi voglio fare interprete io del pensiero di Messori, se vuole può rispondere, perché ci sono bestie maculate nell'immacolatezza, sì, della no, Chiesa. Ma scusami, no, non sono d'accordo, però. Così, perché di fronte a determinati precedenti doveva esserci una reazione contro i batteri, contro, per evitare di indurre, per evitare la tentazione, no? Ecco, uso una parola umana e totale comprensione da parte di tutti, cioè la tentazione fa parte della debolezza umana, nessuno chiede che il Vaticano sia perfetto, ci mancherebbe, sarebbe illogico, ma mi dico, di fronte a determinati campanelli d'allarme, sapendo che ci sono stati casi così gravi e così dirompenti, perché non si è reagito? E allora concludo con un'altra domanda. È Paolo Gabriele che fa del male non al Vaticano, alla Chiesa, o sono i protagonisti dei documenti consegnati e diffusi e resi noti da Paolo Gabriele a far male alla Chiesa? Cioè chi fa male? Chi fa le malefatte o chi rende note le malefatte? Sentiamo se Messori è ancora in linea, se gli va di rispondere a questa domanda. Certo, ma per carità... Capisco, e naturalmente da credente e da cattolico, come dire, rifletto. D'altro canto lo faccio praticamente tutti i giorni, scrivendo libri, scrivendo articoli, appunto rifletto su questa ambiguità appunto della Chiesa. Ma d'altro canto però io vorrei sottolineare il fatto che il Vaticano è uno Stato, e lo Stato della Città del Vaticano ha addirittura una bandiera, un inno, delle forze armate, anche se vogliamo, a dei tribunali e così via. È uno Stato, come ogni Stato ha una banca centrale. Ha una banca centrale la quale deve confrontarsi con realismo, con il mondo così com'è, e non così come piacerebbe agli utopisti o come piacerebbe alle anime belle. La banca deve far fruttare i soldi, dice, questo è il problema. Sì, ma innanzitutto si fa dell'ironia su questo nome, Istituto per le Opere di Religione, ma attenzione, non si ha idea, se non si è dentro la Chiesa, non si ha idea di quanto sia complesso e in qualche modo costoso il mondo cattolico. Molto spesso insomma, è la sola istituzione, è davvero la sola grande multinazionale in fondo. Sentiamo la voce di Ignazio Ingrao, che finora l'ho tenuto in silenzio, perché stiamo parlando del problema riportandolo però in termini astratti. Non so quanto l'uomo della strada, il cattolico lambito in alcuni momenti della propria vita, la propria giornata, il problema religioso, poi tutto questo riesca ad accettarlo. Ignazio Ingrao, tu sei un giornalista, divulghi. Come riusciresti a sintetizzare quello che ha appena detto Messori per la persona che ti chiama e ti scrive al tuo giornale e dice: ma io sono perplesso, come faccio più a credere questa roba? È vero, sì, è senz'altro vero che il Vaticano è una cosa, la Chiesa è un'altra, la fede è un'altra cosa ancora. Ma come si riesce poi a farlo capire questo? Ma assolutamente, diciamo, certo, bisogna avere anche un po' il senso delle proporzioni delle cose. A me ha colpito che in aula Gabriele ha una domanda: perché era tanto, si è tanto scandalizzato? Dice, ma una delle cose che mi ha scandalizzato di più, ha detto Gabriele, è quando il cappellano dei gendarmi è stato sostituito senza avvertire il Papa. Ecco, diciamo, molte dei documenti, almeno che Gabriele, tra quelli che aveva raccolto, ha fornito all'esterno, riguardano delle dinamiche molto interne della curia. Possiamo dire, certo, importanti, ma abbastanza limitate rispetto ai problemi che riguardano poi il mondo. Certo, c'è qualcosa, tu dici, la Cina, una bega di condominio rispetto al presepe, certamente il costo del presepe è importante, gli appalti dei lavori sono importanti, l'ingegnere Cuscianna che forse faceva la cresta sugli appalti piuttosto che il capo dei gendarmi che si allarga, o Bruno Vespa che fa l'assegno, l'offerta per poter avere, o Bazzoli per poter avere l'incontro con il Papa. Però certo, poi i problemi della Chiesa sono anche altri, e sono anche ampi. Adesso io non so quali altri documenti Gabriele in 6 anni abbia raccolto, se riguardano la persecuzione dei cristiani nel mondo, i rapporti con le dittature o con la mafia o con i politici o che so io. Però c'è un altro punto che io volevo dire, che il Papa sono 3 mesi che ha in mano la relazione della Commissione dei Cardinali che ha indagato, intendo cardinali e prelati, su questa vicenda, ha convocato semplicemente una breve riunione a luglio a Castel Gandolfo, dopodiché non si è visto nulla, a parte un pensionamento di un superiore di Gabriele che era una figura, diciamo, di seconda fila della curia. Questo immobilismo dà un senso di impunità poi a tutti gli altri corvi, o comunque a tutti quanti che sono in Vaticano. Ma la tua sintesi, scusa Ignazio, per capire, dice, questo è soltanto un piccolo problema nell'immensità dei problemi della Chiesa, sui quali in realtà ci sarebbero delle risposte molto più importanti da dare. Dunque, questo è un sintomo delle difficoltà di governo che ha la Chiesa, perché quando ha difficoltà a governare il suo centro, certamente poi ha difficoltà a governare anche la periferia. Però ovviamente, diciamo, i temi e le questioni che attraversano il tavolo del Papa sono ampie, articolate, vanno ben oltre il problema di Boffo e di Viganò. Questo è evidente, questo lo dico semplicemente non per sminuire questo, ma per dare anche un senso delle proporzioni a chi ci ascolta. Vittorio Messori, vuole alla conclusione. Posso sì. Intervenire un attimo? Eccolo, sì, Messori. Anche Gra ha ragione, per carità, non sarò io, come dire, io non sono l'apologeta, appunto, per il quale tutto va bene. Non dimentichiamo che ancora per poco tempo era cardinale, ma Josef Ratzinger, parlando del Venerdì Santo, la Via Crucis al Colosseo, parlò addirittura della sporcizia che c'è nella Chiesa, alludeva ovviamente all'istituzione. Non si può dire che è divenuto Papa, Ratzinger non abbia fatto, con il suo stile lento, riflessivo, rispettoso e così via, non abbia cercato appunto di rimediare per quanto è possibile a questa sporcizia della Chiesa di cui ha parlato. Però ciò che davvero, e giustamente per fortuna, ossessiona Ratzinger, ossessiona questo Papa, è quel problema che lui ha affrontato pubblicando 2 libri ed ora il terzo sulla radice stessa, su ciò che davvero conta, cioè sulla fede. Cioè, il Papa non è innanzitutto il principe assoluto della Città del Vaticano, non è innanzitutto un uomo di governo e di amministrazione, deve fare anche questo, ma è soprattutto garante della fede, cioè garante di quella ricchezza, che di quel gioiello splendente, direbbero i padri della Chiesa, che sta dentro una conchiglia, l'istituzione umana, che molto spesso... Su questo non ci piove, ne siamo tutti convinti. Io stavo riferendo a persone con strumenti di elaborazione e di sopportazione un po' meno elaborati e un po' meno consolidati. In realtà si trovano fra 2 fuochi, nel pieno rispetto, totale rispetto del magistero del Papa e della Chiesa. È un po' difficile, sfogliando un giornale, mettere insieme entrambe le cose. Gianluigi Nuzzi, che ricordo, autore del l'ebook uscito per Chiare Lettere, dove appunto viene raccontata questa storia, processo al maggiordomo, i cui introiti andranno devoluti in beneficenza. Rispetto a quello che ci siamo detti finora, riportiamolo sulla, a una realtà più percepibile dalle persone che non hanno il dono di questa profonda e incrollabile fede. Come? Sì, Gianluigi, scusa, no, ti dicevo, siamo in conclusione, vorrei riportarlo in termini concreti per le persone che non hanno questo dono così incrollabile della fede assoluta e della possibilità di mettere al proprio posto il magistero rispetto ai piccoli fatti di cronaca, quale può essere in realtà il punto di vista e la lettura generale alla luce di quello che ci stiamo dicendo? Ma guarda, io credo che per un cattolico, un credente, penso che, come dire, il mistero della fede accompagnato a questo pastore rivoluzionario che Ratzinger siano due saldi, capisaldo del proprio percorso esistenziale. Detto questo, credo che noi giornalisti, piuttosto che pubblicare lettere anonime come a volte Ingrao ha fatto, dovremmo essere tutti contenti quando abbiamo delle possibilità di divulgare, di rendere noti i fatti anche importanti, perché nel mio libro, che Ingrao ne dica, non si parla solo di minutaglie, si parla dello scontro sul polo sanitario nazionale che Bertone voleva fare, e sulla questione del San Raffaele, sulle pressioni di Comunione e Liberazione per portare un cardinale amico a Milano e sugli scontri per la gestione di grandi fette di denaro all'interno dell'OIOR. Ecco, quindi io non cercherei di non sminuire il lavoro dei colleghi, perché diventa un po' triste. Vuoi ribattere, Ignazio? Perché... Ma io non sto sminuendo, certo, dentro nel libro c'è anche un memorandum anonimo contro Bertone che viene consegnato al Papa, dopodiché non so di che lettere anonime tu parli di me, semplicemente Bertone aveva ricevuto, e quello è stato all'inizio della storia, una lettera di minacce che era oggetto di un'indagine, noi abbiamo semplicemente detto su Panorama che Bertone aveva ricevuto quella lettera. Mi sembra che ognuno ha espresso il suo parere, non vorrei trasformare...